Boza, boza, questo è per te infame, questo è per te infame. Piaceri, desideri che scompaiono di notte nel letto, le pareti che ti parlano, lagno nei pensieri, rifletti, soluzioni, effetti di iniezioni, 50 cc di dolore fuori, immutabile spettacolo, distratto dal capire i rapporti, quanto valgono di fatto, atto a volervi parlarvi, starvi accanto, quando accade ciò che rimane però è solo uno scatto, se ubicato nella canon, resta soltanto sfogliarvi con la mano tra le foto di un tempo lontano, e mi dispiace vano dirlo, il tuo cuore non voglio perderlo, il mio non perdertelo, ogni tua lacrima che scivola lascia bagnato, fa più male a me che a te, dentro in questo stato, stato d'ansia tra un mondo di ladri, amo te basta, sei il prezzo più alto dell'asta dei miei quadri, mi dispiace non lo dico mai, e se lo dico è troppo tardi ormai, sai che la ruggine in gola non fa parlare, una parola sola direi, mi dispiace, e mi dispiace non lo dico mai, e se lo dico è troppo tardi ormai, solo la fuligine non fa respirare, una parola sola ma ora lascia stare. E vorrei dire mi spiace per ogni volta che io non ci sono stato, per ogni volta che l'amore non l'ho meritato, per ogni volta che sono sembrato distante, per la mia testa matta e il mio pensiero incostante. Mi piace se non credo più nella magia delle feste, per non avere mai creduto nelle promesse, per avere commesso lo stesso sbaglio più volte, ed aggirato i problemi per sentirmi più forte. E vorrei dire a mia madre che mi dispiace col cuore, per le volte in cui non meritavo più comprensione, per le volte in cui su tutto il mio cinismo ha prevalso, per le volte in cui ho giurato, giurato falso. E mi dispiace se talvolta ho maledetto la vita, e seppellito la speranza nel fondo di una cripta, quando ho dato per scontato ogni particolare, senza il quale la mia vita poi non tanto vale. Mi dispiace non lo dico mai, e se lo dico è troppo tardi ormai, sai che la ruggine in gola non fa parlare, una parola sola direi, mi dispiace, e mi dispiace non lo dico mai, e se lo dico è troppo tardi ormai, solo la fuligine non fa respirare, una parola sola ma ora lascia stare. Dispiacere non svanisci in un bicchiere, quelle sere vere, crudeltà ai lati di un marciapiede perso, come grete nei vicoli di ricordi, pianti sordi che suonano come sonati accordi. Ogni obiettivo non è sempre messo a fuoco, ferme immagini da cui immagini, cataloghi foto, riflesso d'un volto, sì ed altri dopo, solo non avrei dovuto perdere tempo prezioso, frasi di troppo, scomparsi di dialoghi, monotoni sbagli ci rendono omofobi, profughi da una terra natale di rimembranze, troppo tempo perso entro due misere stanze, avrei voluto vedervi più di quanto ho fatto, il fatto che sto occupato come un telefono chiamato, quando ho sbagliato qualche incidente, creano un mare dove affogare senza salvagente.